cosa vuoi far da grande? Ti chiedo da bambino, l'avvocato o il postino. Mi sembra quasi che la scelta poi non c'è. Si dice che più cose fai meglio è. Si dice che se fai da solo fai per tre. Si dice che se non sai l'inglese non arriverai a fine mese. Allora sai che c'è, a me va bene anche così. Quando si fa sera tempo più non c'è, il mondo scomparirà, rimarremo soltanto io e te. E quando si fa sera tempo più non c'è, il mondo scomparirà, rimarremo soltanto io e te. In giro per Milano, in bici contro mano, e vedo da lontano un vecchio amico di Lugano, e lui mi chiede se che se dormi non prendi pesci. Mi dice che se non ci provi non ci riesci. Mi dice che se non vai in palestra non sarai mai pronto per la festa. Allora sai che c'è, ste cose falle te. Quando si fa sera tempo più non c'è, il mondo scomparirà, rimarremo soltanto io e te. E quando si fa sera il tempo più non c'è, il mondo scomparirà, rimarremo soltanto io e te. Soltanto io e te.